Oracolo su Damasco. Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. Per sempre saranno abbandonate le sue città, diventeranno pascoli per le greggi che vi si accovacceranno senza che qualcuno le spaventi. Tolte saranno ad Efraim le fortificazioni e a Damasco il regno. Il resto di Aram avrà una gloria simile a quella dei figli di Israele. Oracolo del Signore degli eserciti. In quel giorno la gloria di Giacobbe sfumerà ed il grasso della sua carne sarà ridotto. Sarà come quando il mietitore prende una bracciata di grano ed il suo braccio taglia le spighe, come quando si raccolgono le spighe nella valle di Refaim. Vi rimarranno solo racimoli, come quando si bacchiano le olive. Due o tre bacche sulla cima dell'albero, quattro o cinque sui rami dell'albero. Oracolo del Signore, Dio di Israele. In quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo al suo creatore ed i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele. Egli non si volgerà più agli altari, opera delle sue mani. Non vedrà più ciò che hanno eseguito le sue mani, i pali sacri e gli altari. In quel giorno le tue città saranno abbandonate come quelle che l'Eveo e l'Amorreo abbandonarono di fronte ai figli di Israele e sarà una desolazione. Perché hai dimenticato Dio, tuo Salvatore, e non ti sei ricordato della rocca, tuo rifugio, per cui hai piantato delle piantagioni amene e inserito dei germogli esotici. Di giorno fai crescere ciò che hai piantato, ed il mattino fai germogliare i tuoi semi. Ma nel giorno della sventura svanisce la raccolta, ed il dolore è incurabile. Guai! Un tumulto di popoli numerosi, tumultuanti come il tumulto dei mari, rumore di popoli come il rumore travolgente di acque potenti. I popoli rumoreggiano come il rumore di grandi acque, ma egli le minaccia e fuggono lontano, sospinte come la pula dei monti di fronte al vento e come il vortice davanti al turbine. Alla sera, ecco, c'è il terrore. Prima ancora del mattino non c'è più nulla. Questo è il destino di chi ci preda e la sorte di chi ci saccheggia.